Benvenuti, benvenuti amici e seguaci di Testa Croce Show. Sì, amici di Radio Cage, siamo in diretta come al solito dagli studi. Questo giovedì 23 febbraio. Dai fantastici studi di Radio Cage. Come sempre alla conduzione il Gab. E Vince, che con la loro conduzione caratterizzata da uno stile libero che ci piace tanto e che amiamo sopra ogni altra cosa. E poi abbiamo in cabina di regia, al mixer, Federico, come sempre. Federico. E poi oggi, come avevamo ampiamente annunciato, sì, abbiamo un ospite che ci terrà compagnia per tutta la puntata. La prestigiosa ospite, Cristina Korzen di Christian Science. Sì, ampiamente saluto, buonasera. Benvenuta, Cristina. Grazie, ringraziamo già di essere qui con noi. Grazie a voi. Andiamo già con l'almanacco? Sì, direi di sì, come è sempre la prima cosa da fare. Assolutamente sì. Ora, come di consueto, ricordiamo la scomparsa di qualcuno, in questo caso è di John Gutenberg, inventore della stampa mobile, di John Keats, grandissimo poeta. Poeta, certo, poeta romantico. Di Carl Friedrich Gauss, matematico di fama mondiale, e Alexei Tolstoi, scrittore, poeta russo. Anna Karenina. Certamente. Esatto. Nacquero il 23 febbraio Georg Friedrich Händel, Karl Jaspers, filosofo e psichiatra, cioè, è il compleanno di David Sylvian, musicista insomma eccelso. Anche è compleanno di un compleanno di due giovani attrici, Emily Blunt e Dakota Fanning. Facciamo gli auguri. E facciamo gli auguri anche a coloro che si chiamano come questi santi: San Giovanni Teristi, monaco, Santa Milburga Badessa, San Milone di Benevento, vescovo, San Policarpo, vescovo e martire, San Primiano di Ancona, vescovo e martire. Auguri a tutti, auguri a tutti gli omonimi. A tutti gli omonimi, sì. Bene, quindi direi di andare a presentare la nostra ospite più in dettaglio, sì. Poi andremo a parlarci, ci dirà appunto qual è la sua religione, ecco. Assolutamente. Dunque, sì. Allora, intanto diciamo che la signora Korzen è la responsabile della comunicazione, no? Per Christian Science. È giusto? Esattamente. Ma lasciamo sì. che sia lei a presentare. Certamente. Intanto buonasera a tutti, sono buonasera. Molto contenta di essere qua. Volevo sapere, conosci un Policarpo? Io no. Io sì, effettivamente sì. Veramente? Veramente, gli ha fatto sì, gli auguri oggi a Policarpo? Diciamo che non è una conoscenza così... è il padre di un mio amico, ecco, semplicemente. Quindi, comunque quindi... sì, gli faccio gli auguri a Policarpo. Auguri, allora. Ero molto interessata. Policarpo e Elia, Policarpo. Per la precisione. Sì, io conosco la scienza cristiana ormai da tanti anni e sono il punto di contatto, la persona di riferimento per gli enti governativi, per i media e per chiunque voglia sapere notizie sulla scienza cristiana in Italia. Certamente. E noi siamo tra questi. Infatti l'invito è anche per questo motivo, ovviamente. Certo. Bene, direi che possiamo continuare a parlare di scienza cristiana dopo uno stacco musicale. Sì, prima ricordiamo però i nostri contatti, perché certamente. Soprattutto oggi, ma in tutte le puntate, sì. Ma soprattutto in questa, abbiamo questa preziosa occasione di parlare con Cristina Korzen, quindi voi che siete all'ascolto, se avete domande, curiosità, riflessioni... C'è un motivo in più per interagire con noi in diretta. Con noi e scriveteci a testacroceshow@gmail.com. Oppure usate l'indirizzo Skype testacroceshow. In diretta, sì. E poi ricordiamo il blog testacroceshow.blogspot.com, dove si trovano i primi 8 podcast e si troveranno tutti gli altri in seguito. Sì. E allora, cominciamo con un pezzo appunto per darci la carica. Il boss, Bruce Springsteen, che sta per uscire il 6 del prossimo mese con un nuovo album, e questo invece è Radio Nowhere, tratto dall'album Magic del 2007. Bentornati dopo questo pezzo di Bruce Springsteen. Andiamo a parlare un po' più in dettaglio cristiana. Della scienza partiamo cristiana. Dall'inizio, dalle origini, quindi. Sì, dunque la scienza cristiana si fa risalire alla, alla scrittura, no? A un libro che è stato pubblicato da Mary Baker Eddy, nata nel 1821 e morta nel 1910. Ma lasciamo che ce ne parli appunto Cristina Kortzen. Allora, come nasce la Christian Science? Ma in maniera molto semplice, anche se molto interessante per me. Allora, questa donna è una donna molto con una vita molto travagliata. E, appunto, come hai detto tu, nasce nel 1821 e è subito afflitta da vari problemi fisici di varia natura. Cerca tutta la sua vita soluzioni a queste problematiche fisiche, senza mai trovare non solo pace, ma soluzioni definitive. Si sposa due volte, sempre matrimoni assolutamente travagliati, che comunque aumentano le problematiche fisiche. Cerca di seguire questi suoi mariti che ha avuto in questi viaggi interminabili, insomma, cerchiamo di immaginarci nel 1821 nella vastissima America, dove ci si spostava con le navi per andare da un porto all'altro. Quindi diciamo il fulcro della nascita della scienza cristiana è a causa di una caduta. Lei cade sul ghiaccio. Ecco, il febbraio del 1866, sì, esattamente, giusto? Sì, il 3 febbraio per l'esattezza, e si fa molto male. Alla spina dorsale. Esatto, si procura delle lesioni che i medici allora non hanno potuto porre rimedio. E lei rimane a letto a questo punto e trae beneficio dall'unico libro che per tutta la vita, insomma, l'ha accompagnata, che è la Bibbia. E leggendo un versetto di Matteo, quindi del Nuovo Testamento, guarisce, si alza dopo due giorni. Cioè istantaneamente lei si rende conto di essere guarita. Quindi che qual cosa è questo fa? Versetto? Certo, Matteo 9, 2, una delle classiche guarigioni di Gesù, insomma. Ah, ecco, alza, sì. il paralitico, ecco, a letto. Cioè i medici poi la visitano e verificano effettivamente, allora, che la lesione succede? È scomparsa. Cosa succede? Succede che lei si alza, si veste e comincia a fare la sua vita normale. E le persone che la vedono il giorno dopo in giardino muoversi e fare cose sono assolutamente increduli. Il medico che comunque tornava ogni giorno per visitarla e l'aveva data per spacciata, non può credere. Cioè era una sorta di paralisi quasi, cioè era una lesione, sì, che non le consentiva di camminare. Esatto, okay. Di muoversi. E quindi che cosa succede? Dopo questo lei dedica, diciamo, il resto della sua vita a capire come è successa questa guarigione, perché naturalmente vuole poterla condividere con gli altri e possibilmente farla diventare una cosa per tutti. Insomma, e perciò decide di scrivere questo libro. Sì, nei cinque anni seguenti lei diciamo si ritira a vita privata, perché naturalmente poi era subissata da qualsiasi tipo di richiesta, qualsiasi tipo di domanda, la gente la veniva a cercare. E scrive questo libro, ecco, sì, che Scienze e Salute con chiave delle scritture, che viene pubblicato per la prima volta nel 1875 e viene poi non riscritto, però diciamo aggiornato fino volte, alla 226esima edizione, che è quella che abbiamo noi oggi. Che è completa, circa una all'anno, insomma. Esattamente, sì. Che è completa, l'ultimissima edizione, che è completa alla fine di tutto un capitolo dedicato solo alle guarigioni, alle persone che sono state guarite con il libro. Sì. Testimonio, perché ho questo libro a casa e lo ho potuto vedere. Ah, no, pensavo che fossi... No, non mi è successo, però ho avuto modo di dare una sfogliata al libro, insomma, sì. E quindi poi io, ecco, c'è una cosa che vorrei che lei chiarisse meglio, ci aiutasse a chiarire meglio. Dunque, inizialmente è un libro e quindi è una testimonianza, poi diventa scienza cristiana, quindi come penso, come visione, no? E infine approda ad essere Chiesa del Cristo Scientista, che è ancora una cosa diversa, o no? Sì, beh, diciamo che... Cioè, da quando è visione del mondo, diciamo, a quando diventa Chiesa vera e propria. Beh, lei non fa immediatamente la Chiesa. Ecco. Lei non pensava per nulla a fare una Chiesa all'inizio. E, fa inizialmente una specie di collegio per lo studio della scienza, chi voleva partecipare, perché comunque il suo scopo era quello di condividere con gli altri, no? E di studiare e di capire, farla diventare proprio una scienza. Lei l'ha chiamata scienza perché? Perché comunque, ecco, questo è un punto interessante, infatti. La scienza che cosa dice? La scienza cristiana dice che se tu applichi lo stesso tipo di procedimento ottieni il risultato, quindi lei lo chiama scienza. Ah, ecco, in questo senso. Cioè, esatto. Ritiene che valga il principio di ripetibilità, cioè valga anche per la Chiesa di Cristo Scientista. E cristiana perché comunque si rifà alle pratiche di Cristo, cioè alle guarigioni che Cristo faceva quando era con noi, insomma, diciamo, quando, no, non è che adesso Cristo è sempre con noi, però quando era materialmente al mondo. Sì, ecco, ma questa idea di, appunto, di andare a, diciamo, a mantare questa religione con laurea scientifica, è una cosa che è nata fin dall'inizio? Sì, cioè... assolutamente sì. Ma mi chiedo, ma una necessità di dargli un valore maggiore all'occhio dell'uomo, diciamo, occidentale, che comunque dà valore alla scienza, oppure c'è proprio effettivamente c'è una convinzione che i metodi utilizzati per le guarigioni siano effettivamente considerati dalla scienza validi, ecco, sotto il profilo proprio della scienza ufficiale? Guarda, secondo me è una fusione di tutte e due le cose che hai detto. Assolutamente, non è né più una né più l'altra, è una fusione di tutte e due le cose. Sì, perché io mi chiedevo perché fosse sentita un'esigenza di dare questa definizione, perché non è necessario, secondo me, che l'unico metodo considerato valido sia la scienza, quindi se anche un metodo alternativo si dimostra funzionante, non c'è necessità di appellarsi alla scienza per dargli validità, secondo me. In questo senso, quindi... scienza significa proprio che è un metodo che, appunto, venendo ripetuto, è efficace. Sì, ho capito. Quindi in questo senso, capito, no? Cioè, usato, e non solo, cioè è comunque cioè è testimoniato che funziona, capisci? Quindi comunque lei ha pensato di chiamarla scienza perché secondo lei è quello che Cristo comunque faceva già prima, cioè lei non ha inventato nulla. Noi, cioè, tante volte la sentiamo chiamare l'inventrice della scienza cristiana, ma in realtà lei non ha inventato nulla, lei è la fondatrice del movimento della scienza cristiana. Diciamo che lei ha riletto la Bibbia, Vecchio e Nuovo Testamento, in una chiave diversa, sostanzialmente, rispetto a quella con cui la leggono le altre religioni. Le altre chiese, insomma, sì. Perché la struttura del libro poi è proprio questa, no? Cioè c'è un riferimento continuo alle scritture. Sì, è una chiave, sì, appunto. Sì, anche... una chiave, sì. Sì, poi è la sua chiave di lettura, sì, cioè vorrei giusto, essere precisa. Naturalmente. Perché comunque... continueremo a parlarne dopo un'altra interruzione musicale. Sì, allora ci andiamo a sentire un pezzo dei Karate, che sono un gruppo che fa jazz fusion, direi. Ah, però. E questo è Pockets. No, Pockets, ce l'ascoltiamo. Rieccoci in diretta, amici ascoltatori. Diretta. sempre a parlare di scienza cristiana. Ma salutiamo coloro che ci stanno seguendo, sì. Paola, Francesco ad esempio, e Jacopo che sta uscendo ora dall'ufficio, ci fa sapere, quindi non ci sta ascoltando ma ascolterà il podcast con molto interesse. Dunque, sì, siamo appunto a parlare di scienza cristiana, scienza cristiana Cristina Corzi. Lo dico senza provocatorietà, è quasi un nome che è un po' un paradosso. Sembra, un simoro forse, potrebbe sembrare. Va bene, insomma, comunque, però, proprio su questo... Sì, un paradosso, secondo no, te? No, paradosso secondo me no, al massimo può essere considerato appunto uno simoro, un contrasto forte di termini. Sì, un contrasto di termini. Però, beh, ovviamente ora, infatti, il punto che mi preme di più, perché penso sia il fulcro poi appunto della scienza cristiana, il rapporto appunto fra la scienza e la fede. Ecco, io... mi chiedo, ci sono state, è stato mai documentato, ad esempio, a livello ufficiale avete pubblicazioni su articoli scientifici di guarigioni appunto avvenute tramite la pratica della scienza cristiana? Allora, guarda, è una domanda che ci fanno in parecchi. Beh, immagino. Questa, cioè, no? È facilmente immaginabile. Certo, io ci tengo a precisare ancora una volta, lo faccio unicamente perché voi avete appunto interesse a che il vostro nome contenga anche la parola scienza. Per me certo. non è necessariamente un unico motivo per cui una cosa è vera o valida. Però no, ma io vorrei, diciamo, mettere il... prendere un punto di vista un po' più semplice, nel senso che dal punto di vista di chi sente per la prima volta questo nome, no? Senza sapere, sì, di cosa si tratta nello specifico, cosa c'è dietro, sicuramente scienza e cristiano, l'aggettivo, sono... Sì, anzi, addirittura scientista ha l'accezione ancora più forte di una fede nella scienza, di pensare che la scienza possa spiegare tutto. E chi si definisce scientista difficilmente, no? Ha un rapporto conflittuale, appunto, con infatti, la fede. Io facciamo... quindi intendo solo questo punto di vista, che può essere quello comune, insomma. Infatti sentiamo. Quindi sentiamo... Ma guarda, ti devo dire che non l'avevo mai pensata sotto questo punto di vista, forse perché la mia esperienza è, come posso dire, non un'esperienza di accettazione e basta, una fede cieca. La scienza cristiana per me è... non posso neanche definirla una religione, per me è uno stile di vita proprio, ed è una pratica, proprio pratica nel senso che la puoi mettere in pratica ogni giorno in qualsiasi situazione, quindi non soltanto nelle malattie oppure diciamo in tutto quello che è fisico, no? Che si manifesta nel, sì, fisico. E mi chiedevi di paper, pubblicazioni scientifiche, esatto, cioè se c'è un riconoscimento, sì, sì, ufficiale dalla, no, scienza, esatto, canonica, per così dire. Ti dicevo che questa è una domanda che ci fanno in parecchi, naturalmente non ci sono scritti di questo tipo, perché tutto è documentato e documentabile tramite i racconti delle persone che vengono guarite ogni giorno, e questi racconti, diciamo, sono non mi viene sono la parola in italiano. Testimonianze, no, a parte testimonianze, sono prove, sono avvalorate da tre persone, spesso e volentieri ci sono anche i medici che hanno tentato di guarire queste persone e non sono riusciti, sì. Quindi diciamo questo è l'unico come posso dire, l'unica testimonianza scientifica che c'è. Ci sono però degli altri studi, probabilmente, insomma, molte persone saranno a conoscenza di queste, e sono stati fatti proprio delle sperimentazioni, è brutto da dire, sembra una parola orrenda, però insomma delle sperimentazioni esperimenti, diciamo. Degli esperimenti in doppio cieco, chiamati proprio così, con delle persone che erano affette da vari tipi di disturbi e da malattie, che venivano trattate da persone che pregavano per loro. Quindi, e questi studi sono documentati. Questi studi sono documentati. Sono stati fatti negli Stati Uniti e sono stati portati a termine. Non hanno ricevuto comunque delle pubblicazioni, non hanno trovato spazi. Sono delle pubblicazioni che sono state fatte proprio negli ospedali negli Stati Uniti, perché è stata fatta proprio una richiesta da questo punto di vista, testimoniare. Per il resto poi ci sono le testimonianze giornaliere dei fedeli. Ho letto che su un Araldo ci sono varie pubblicazioni. Considera una cosa: che ogni volta che viene pubblicata la testimonianza di una guarigione, ci sono tre persone che testimoniano la veridicità, cioè non è che viene scritta una cosa qualsiasi. Però non sempre credo sia possibile. Vado a leggere appunto una testimonianza che ho trovato dal Christian Science Sentinel, tradotta del 21 novembre 2011, ne ho scelta una a caso in realtà. Una sera di alcuni anni fa stavo preparando una cena a base di spaghetti per la mia famiglia. Mentre mi allungavo per arrivare a prendere un piatto per la pasta da un armadio, un grosso coperchio di vetro mi cadde in testa. Mi spaventai e gridai. Poi mi accorsi che la testa stava sanguinando copiosamente. Mi misi un panno per fermare l'emorragia, quindi terminai di preparare la cena. Capii che avrei fatto meglio a prendere il controllo del mio pensiero. Così fu naturale per me cominciare a pregare, e lo feci subito, affermando la mia unione con Dio. Cercai anche di mantenere un atteggiamento normale per non allarmare mio marito e le mie figlie. Dopo cena mi sentivo girare la testa, così andai in un'altra stanza e chiamai un'amica per chiedere un aiuto tramite la preghiera. Appena riattaccato il telefono, mi venne alla mente una frase nella definizione di uomo contenuta a pagina 475 di Scienze e Salute, con chiave delle scritture di Mary Baker Eddy, che lo definisce come la cosciente identità dell'essere come viene rivelata nella scienza. Compresi che non avrei mai potuto perdere conoscenza, perché ogni coscienza è nella mente, e io riflettevo questa vera, unica consapevolezza. Le vertigini mi passarono immediatamente e fui in grado di unirmi alla mia famiglia per la serata. La mattina dopo, facendo la doccia, lavai il sangue secco dai capelli. Non vi era taglio, né alcun segno che l'incidente fosse mai avvenuto. Rimasi allora, e sono tuttora strabiliata, per l'immediatezza e l'efficacia di un'unica idea giusta. Questa è Annette Dutenhofer, di Longmont, Colorado, Stati Uniti. Era interessante leggerne una. L'unica cosa mi chiedo, in questi casi ovviamente, essendo un incidente avvenuto in un tempo breve, è impossibile documentarlo in modo accurato, nel senso che la signora in questo caso, insomma, nell'arco di poche ore ha avuto l'incidente, ha avuto la guarigione, e poi probabilmente, immagino, abbia inviato una lettera al giornale che poi ha pensato di pubblicarla, credo. Quindi in alcuni casi ovviamente immagino sia impossibile, anche volendo, documentare con testimonianze. Assolutamente sì, ti voglio dire però che non tutte le testimonianze vengono pubblicate, cioè c'è un vaglio, c'è un comitato che insomma vaglia qualsiasi tipo, perché se no, insomma, voglio dire, chiunque potrebbe scrivere dire cose. Sì. Questo è auspicabile. La cosa che strabilia, secondo me, più che la guarigione, perché se vogliamo vederla dal punto di vista della scienza cristiana, quello che materialmente viene definito miracolo non esiste nella scienza cristiana, perché comunque il miracolo è la normalità per Cristo. Sì, no? Certo, non è un miracolo, perché è una cosa prettamente scientifica. Ma quello che più stupisce, secondo me, è... Il fatto, cioè, è la presa di coscienza immediata quando a te capita qualche cosa, insomma, per chiunque, insomma, sarebbe la prima cosa che ti viene in mente, cioè, perdere il senno, diciamo, fra virgolette, e lasciarsi andare a quello che è, diciamo, la realtà materiale, cioè il fatto di questo coperchio che ti è caduto in testa, di questo taglio e di questo rivolo di sangue che probabilmente tu te lo vedi pure scendere. Certo. Ecco, quindi questa è la cosa che più stupisce. Ecco, abbiamo introdotto quindi la visione, no? Qual è effettivamente il cuore dell'insegnamento della scienza cristiana. Continueremo dopo un altro stacco musicale, e questo a noi abbiamo proposto, come a tutti gli ospiti, a Cristina, di proporci un brano musicale per la playlist, e lei ha scelto Better Days Ahead di Pat Metheny. Vuole spiegarci che significato ha per lei questo brano? Beh, diciamo che io, insomma, adesso è inutile che vi dica quanti anni ho, però se non vuole però diciamo che insomma, ho un background musicale. Bene, direi di... Facciamo partire il brano. Facciamo sentire Better Days Ahead. Bentornati in diretta, stiamo parlando di Christian Science. Prima forse Cristina Korsen ci ha spiegato appunto che ha scelto Pat Metheny per gusti personali. Bellissimo, forse, bellissimo. Sì. Ecco, veramente un fantastico pezzo. Sì, infatti siamo stati contenti che il suo background musicale non fosse in conflitto col nostro. Assolutamente. Anzi. Vogliamo andare appunto con... facciamo appunto un'introduzione nella nostra chiacchierata per porre la domanda... La domanda esistenziale consueta ai nostri ascoltatori. Abbiamo questa rubrica che si colloca all'interno di un concorso in cui facciamo delle domande, scegliamo poi le migliori risposte, e in base a questo decidiamo il vincitore e il perditore assoluto. Sì. Allora, sono domande di un certo, di solito di una certa caratura, ecco. Di un certo spessore, le introduciamo in genere con il passo di un testo sacro o qualcosa del genere. Allora, che cosa abbiamo scelto? Leggiamo un passo del Genesi. Allora, quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, ancora nessun cespuglio della steppa vi era sulla terra, né alcuna graminacea della steppa vi era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra, e non vi era Adamo che lavorasse il terreno e facesse sgorgare dalla terra un canale e facesse irrigare tutta la superficie del terreno. Allora il Signore Dio modellò l'uomo con la polvere del terreno e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi, graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. Ecco, questa era la cosiddetta redazione J, cioè la redazione più antica della cosmogonia ebraica, quella che fa riferimento alla cosiddetta tradizione yavista, risalente al X secolo a.C. Questo passo semplicemente per introdurre la domanda, perché? Perché è un po' è una appunto delle storie della creazione, ed è quindi uno dei passi che sono al centro del dibattito tra creazionismo ed evoluzionismo. Dibattito antichissimo, ma accesissimo particolarmente in questi ultimi decenni, ad esempio in America. Allora, la domanda che vi poniamo, cari amici ascoltatori e amiche ascoltatrici, è questa: le affermazioni della scienza e della religione si contrappongono o sono compatibili, e perché? Ecco, questo, quindi scriveteci. Una domanda che prima o poi doveva assolutamente arrivare. Doveva succedere, ecco. Sì. E allora, giacché è qui Cristina Korsen, poniamo a lei questa domanda ricollegandoci appunto alla visione del mondo che presenta la scienza cristiana, e quindi le diamo ampio spazio per riprendere il discorso già accennato poco fa, insomma. Prego. Ma guarda, secondo me è molto semplice. Giusto appunto, è stato non un caso che voi avete letto questo, io comunque l'avrei fatta questa citazione. Dio dice che ha fatto tutto. Ma come l'ha fatto? L'ha fatto buono? L'ha fatto bello? L'ha fatto buono? Ha detto lui che l'ha fatto buono, non l'abbiamo detto noi. per chi ci crede, l'ha detto. Sì. Esatto. Io sto parlando della Genesi. Certo. Lui ha guardato, ha detto: ho fatto tutto e ho fatto tutto buono, ho fatto tutto giusto, quindi ho fatto tutto buono. Se nella scienza cristiana consideriamo Dio come la mente, quindi l'elemento che ha iniziato il movimento e che è creativo, la scintilla, esatto, e quindi come posso dire, iniziatore di questa evoluzione, perché lui ha detto fa tutto buono, fa tutto perfetto, poi ha detto sì. Quindi perché la scienza dovrebbe essere in contrapposizione? La scienza cosa fa? Non studia forse l'evoluzione? Sì. Ora, io dico una cosa molto banale. Basterebbe studiare in minima parte l'occhio per capire... L'occhio umano? L'occhio umano. Anatomico. Per capire che come può essere fatto da... una materia, cioè come si può essere evoluto. È una cosa talmente complicata, è una cosa talmente perfetta. Beh, però di fatto esiste, certo, o no? Certo, esiste. Ora poi, se vuoi... Non è in contrasto con l'evoluzionismo l'esistenza di parti anatomiche ad alto grado di sviluppo e di particolarità, ecco. No, non è ritenuto un ostacolo, ecco. No, è possibile, certo, diciamo. No, non voglio dire questo. Sì. Voglio soltanto dire, torno alla parola perfetto, sempre funzionante, fatto per funzionare. E secondo me... in quest'ottica e in questo punto di vista, no? E secondo me non c'è contrasto con la scienza. Io non vedo nessun contrasto. Beh, ma mi sembra di aver capito che sostanzialmente il punto è quello, cioè Dio che dà una spinta e poi l'evoluzionismo che fa il resto, ho interpretato male le sue parole? Io più che una spinta direi crea. Una creazione effettiva. Certo, quindi, certo. Quindi si parla ma di quindi creazione. Anche l'uomo nella sua forma attuale o qualcosa di un proto uomo, ecco, allora, dovrei capire anche questo. Diciamo questo, nella scienza cristiana la materia non esiste, perché Dio non ha fatto la materia. A dire un po'. Sì, ecco, questo in effetti è un punto importante che non abbiamo Dio non ha fatto la materia, Dio è spirituale. L'uomo quindi, essendo fatto a immagine e somiglianza di Dio, non è materiale. Qualsiasi l'uomo cosa fa? Riflette, essendo idea spirituale di Dio, tutte le qualità di Dio. Quindi sì, beh, questo in effetti cosa... è interessante, il fatto che solitamente si considera immagine e somiglianza. Non si nota quanto sia in contrasto questo con la natura, che poi dovrebbe avere Dio, che non è appunto materiale, però non è corporea. Ecco. Invece voi questo contrasto non ce l'avete. Se non altro. No, il fulcro della scienza cristiana è proprio questo, è la spiritualità di Dio, e quindi necessariamente se sposo il concetto della che l'uomo è il riflesso di Dio, l'uomo non può essere materiale. Ma voi ritenete quindi che la materia sia illusoria? Cioè che noi viviamo sostanzialmente in un mondo illusorio? Sì, assolutamente sì. Ecco, ma e questo... Anche... No, prego, Vince. Tra l'altro Mary Becherady si sofferma molto, no, sul fatto che il male è un errore, no? È un'illusione. Sì. Ecco, vogliamo dirlo, sì. Perché il male è il problema centrale. Ecco, a proposito... dell'uomo. Scusate se interrompo un attimo, leggerei una cosa che ci ha scritto Paola. Sentiamo. Sbalordito il diavolo rimase quando comprese quanto sceno fosse il bene e vide la virtù nello splendore delle sue forme sinuose. Ecco, mi sembrava proprio carino, calzante, sì, comunque. Comunque, appunto, quindi... Il male è un errore, no? Sì. Ecco. Magari se può dire qualche altra parola su questo concetto, quindi perché soffriamo, no? Ecco. E poi nel libro di Mary Baker Eddy curiosamente c'è un'ostilità, cioè ci sono due capitoli, uno contro lo spiritismo e uno contro il magnetismo animale o mesmerismo, che poi ora penso sia collegabile all'ipnotismo, no? Questo, ecco, è curioso perché se ci sono due domande tutto è spirito, da spezzare, no? Direi, ecco. sì, però vediamo un po'. Allora rispondo subito con la prima, sì, va bene, sì. Rispondo subito, diciamo la mia prima risposta è sull'ultima. Sì. Diciamo sull'interesse, insomma, di quest'ultimo del capitolo. Beh, intanto io considero sempre questo, io personalmente, è la mia idea ovviamente, che questo libro è stato scritto in un'epoca ben precisa, dove 1875, diciamo, ricordiamo, sì, a chi si fosse collegato solo adesso. Sì, la prima stesura, perché poi comunque ci sono state anche capitoli che sono stati aggiunti in un secondo tempo. Sì. In quel periodo c'era molto fervore, cioè tutti cercavano nuove vie, tutti cercavano guarigioni, c'era moltissimo interesse. Sì, sono nati moltissimi movimenti in quell'arco di 15 anni, 20. Allopatia, omeopatia, idropatia, quindi le persone erano anche molto interessate a capire che cosa ci poteva essere dopo, no? Che se c'era qualche cosa dopo. E diciamo c'è stato un grossissimo sviluppo di persone che si davano allo spiritismo, spiritismo perché pensando medianico, esatto, insomma, pensando che fosse qualche cosa di spirituale e pensando che potevano in qualche modo essere aiutati dalle persone che stavano nell'aldilà, no? E essere aiutati a guarire o essere aiutati, insomma, a fare determinate cose. Ma anche soltanto il sapere che continuano a esistere per loro. Esatto, per cui lei quello che condanna è l'uso che se ne fa di questo. L'abuso. No? Esatto, perché comunque veniva usato in modo sbagliato. Poi al di là di quello che può essere la credenza di ognuno di noi, ma insomma l'uso che se ne faceva era sbagliato. Voglio dire un'altra cosa, questa donna è una donna di molta esperienza, tutto quello che lei ha scritto l'ha scritto perché comunque l'ha sperimentato. Lei prima di arrivare alla scienza cristiana, no, prima di arrivare al 1866 in cui ha avuto questa guarigione, lei comunque ha provato qualsiasi tipo di terapia per guarire dai suoi vari appunto questo malanni. L'abbiamo, ecco, direi di passare al fatto del magnetismo animale. Siamo appunto non manca tantissimo tempo, quindi stringiamo un attimo, se possibile. Il magnetismo animale, diciamo, è un gergo tipicamente della scienza cristiana. E spesso e volentieri viene confuso con chissà quale cose, diavolerie, oppure insomma cose che non hanno nulla a che vedere in realtà con questo magnetismo animale. Tornando a quello che dicevo prima, cioè alla non materialità dell'uomo, e stressando il fatto che i buoni pensieri e un buon modo di pensare eleva la qualità della tua vita, avendo detto questo, il magnetismo animale non è altro che questo lasciarsi andare al pessimismo, diciamo ai luoghi comuni della malattia, a dire perché tanto prima o poi una tegola in testa mi arriva. Pensare negativo, poi, insomma. Esattamente. Ecco, ma appunto, perché ormai alla fine è accettato anche dalla scienza ufficiale il fatto che la mente abbia un ruolo fondamentale nei processi di guarigione. Però non ovviamente un ruolo che non, di per sé non è sufficiente in alcuni casi, nei più gravi sicuramente, anche se può aiutare a velocizzare appunto il processo di guarigione. Ecco, ma quello che dite voi è esattamente questo, è una parte di questo, oppure è una cosa differente, cioè non basta, diciamo, l'atteggiamento positivo, non è sufficiente, diciamo, per guarire. Come ti dicevo io prima, quando io parlo della scienza cristiana parlo di uno stile di vita. Sì, sì, sì. Quindi non parlo per me personalmente di qualche cosa che io uso così ogni tanto, e appunto questo per riconfermare il fatto che pensieri positivi e aspettarsi il bene sapendo che comunque Dio ci ama, no? Perché se lui ci ha fatto, non è che ci ha fatto per lasciarci in un deserto a morire di sete, ci ha fatto perché ci ama, noi siamo perfetti, ecco, a sua immagine e somiglianza. Quindi un non credente, secondo voi, con un atteggiamento positivo nei confronti della sua malattia, non avrebbe dei benefici comunque a livello... Assolutamente sì. Guarda, ti faccio un esempio molto stupido. Io ho avuto un'interessantissima conversazione con questo professore. Ecco, ce lo dice dopo, sì. lo stacco, certo, musicale. Se non è... Sì. E poi parliamo, prima di chiudere, parliamo anche brevemente della realtà italiana. Però prima della musica volevo dire a Cristina che uno dei nostri ascoltatori, Francesco, ci ha scritto: non so l'età della vostra ospite, ma io le do una ventina di anni dalla voce. Grazie. non ci sei andato vicino. Ora non ci sei andato lontano, perdonate la... lapsus tremendo, veramente. È stato un... allora, chiamiamolo lapsus freudiano. Chiamiamolo lapsus caso. Freudiano. Va bene, andiamo con l'ultimo brano musicale. Sì. Allora, ci ascoltiamo un pezzo di Kate Bush. Sì, Kate Bush. Sì. The Man with the Child in His Eyes. I hear him before I go to sleep. Focus on the day that's been. The man with the child in his eyes. Ooh, he's here again. The man with the child in his Eccoci tornati qua in diretta su Testa o Croce. Siamo alle fasi conclusive, però ci sono da dire ancora tante cose, quindi cerchiamo di andare veloci, ma di dire cose che riguardano proprio interessati a questa scienza e eventualmente ad affiliarsi. Ci sarebbero da fare 3 o 4 puntate su questo argomento, che è affascinante. Ma volentieri, molto volentieri, molto volentieri. Però adesso era diciamo qualcosa, sì, un invito. Però diciamo qualcosa sulla scienza cristiana in Italia, cioè quanti siete, insomma, dove siete, come mettersi in contatto. No, non con lo voi. Dicono quanti se ho non letto. Dico, bene, no. Non è lo dicono. Ecco, è vero. Ecco. Allora, diciamo che c'è un anonimato sul numero, ma insomma non è una cosa complicata. Insomma, noi siamo sparsi un po' per tutta Italia. Diciamo che i centri più importanti, dove comunque le comunità sono un pochettino più grandi, sono Aosta, Milano e Firenze. Firenze, che se non sbaglio è la più antica, no? Sì, esattamente. Perché comunque inizialmente, quando la scienza, insomma, ha cominciato a venire in Europa, in Italia il primo approdo è stato Firenze. Sì, e l'ultima è Aosta, se non sbaglio, la più recente, no? Sì, di quelle importanti. Sì. Ecco. Poi a Roma anche abbiamo una comunità dove, insomma, ci si può... persone che di studio informale, ho letto, viene definita. Esattamente, sì. E voi vi incontrate il mercoledì e la domenica? Allora, ci diceva, noi ci vero? Incontriamo la domenica e facciamo lo chiamiamo servizio domenicale. Non è, diciamo, non è una messa come potrebbe in stile cattolico, è un servizio domenicale. E poi ci incontriamo. Beh, leggete passi dal vostro libro, sì, da principale e dalla Bibbia, e poi c'è musica, canti, c'è molta, no? Musica, ecco. Sì. E questo è tutto. Esatto. E poi mercoledì. E poi il mercoledì invece ci riuniamo e facciamo, diciamo, le persone condividono le proprie guarigioni. Benissimo. Diciamo. Vuole darci un contatto, un sito, un'email attraverso ma cui... sicuramente il sito italiano è www.christianscience.it. Poi comunque c'è un blog che è www.scienzacristiana.net, e dove si possono trovare tutti i numeri di telefono e tutti i contatti. Che fosse interessato appunto a entrare a far parte di questo movimento... come appunto vi contatta in questo modo, certo. Semplicemente sì, o ci sono dei procedimenti? No, assolutamente. Entra in contatto con noi telefonicamente, tramite un'email, ci scrive. Ci sono dei requisiti di partecipazione, qualcosa, se uno è bello Ah, però insomma non ha importanza, No. Beh, la materia è illusoria, è non vero, dimentichiamo. Bravo, vedo che hai imparato subito. Sì, ma anche perché è comune alla fine anche altre, sì, altre culture, tra cui l'induismo. Vogliamo dare questa sì, segnalazione, perché Cristina ci diceva che a Milano ci sarà una conferenza. Sì, presto ci sarà una conferenza e è già sul, insomma, per chi è interessato può già andare a vedere sul sito www.christianscience.it. Mi pare il 24, sì, il 24 marzo, esatto, il 24 alle ore marzo, 17, esatto, allo spazio a Milano, sì, allo spazio Monte Napoleone, Napoleone 6A per la precisione, esatto. Jane Dickinson Scott, il titolo è La mia vera identità, chi sono e qual è il mio ruolo. Esattamente. È una relatrice quindi esterna. Sì, sì, è una relatrice che viene da fuori e ci saranno delle persone comunque che faranno anche delle traduzioni simultanee, però so che lei parla anche l'italiano, quindi potrà poi rispondere anche a delle benissimo domande per chi si trova in zona. Benissimo, allora, per saperne di più quindi consultate il sito, consultate il blog di Scienza Cristiana e eventualmente andate a vedere questa conferenza. Allora noi ringraziamo tantissimo, sì, ringraziamo la nostra ospite che è stata simpatica, disponibile, gentile, bella anche, diciamolo, anche, grazie, anche grazie, se la materia è illusoria, però diciamolo, però il caffè è pagato, anche se non ha 20 anni ma ne ha poco più. Sì, sì, sì, infatti, però ecco, quindi la ringraziamo. Meno, però, un po' più del meno doppio, ma non fa niente. Ne ha un po' di più, ma ne dimostra un po' meno. È illusione. Grazie, grazie. Ringraziamo tantissimo. Se vuole tornare, sarà sempre la benvenuta qui, grazie, a Testa Croce Show. Diamo i nostri contatti di nuovo. Certamente, per e anche per rispondere alla domanda che è stata fatta oggi, cioè il rapporto fra scienza e fede. Sì, testacroceshow@gmail.com. Testa Croce Show è il nostro contatto Skype. E il nostro blog, testacroceshow.blogspot.com, dove si troverà presto anche il podcast, certamente, di questa puntata. E vi diamo appuntamento a giovedì prossimo con un altro grande ospite, quindi seguiteci. E salutiamo Federico, il nostro tecnico Federico audio, nostro e ora vi lasciamo con Jacopo Mascani con la trasmissione Dietro l'angolo, che parla di band locali. E dopo Renato Peghen, e ricordate, stile libero. E stile salutiamo libero tutti al giovedì prossimo. Ciao. Ciao a tutti, ciao. Sigla. Imagine that.